importante è quello tanto di esprimere solidarietà nei confronti in particolare delle lavoratrici, perché come hai ricordato la manodopera è quasi esclusivamente, anche se non esclusivamente, femminile. Di esprimere solidarietà, di incontrarle, parlarci, ascoltarle, capire a che punto è l'avvertenza, una vertenza che peraltro non si è mai aperta effettivamente. L'azienda rifiuta ogni interlocuzione, rifiuta tanto per cominciare di sospendere la procedura per aprire un'interlocuzione, sarebbe normale aspettarsi in casi di questo genere. Per la verità però non è difficile spiegarne la ragione. Questa procedura di licenziamento, 126 persone peraltro nel cuore pulsante dell'azienda, nel suo settore creativo, quello che poi ne determina la competitività dal punto di vista della capacità di stare sul mercato, arriva a seguito di quello che ormai è stato rivelato, cioè di un gioco speculativo costruito su fondi di investimento nei quali sono finiti anche i titoli utilizzati per rilevare l'azienda da parte appunto della proprietà olandese. Ancora una volta siamo di fronte a quel meccanismo diabolico in cui la finanza e la speculazione finanziaria si mangia l'economia reale, e con l'economia reale anche la vita delle persone. Dunque ero qui per portare solidarietà, per occuparmi di questa vicenda, naturalmente con le poche forze di cui dispone un parlamentare di opposizione, ma che almeno possano, spero, aiutare a dare ulteriore visibilità a una battaglia molto forte e anche molto bella come quella delle lavoratrici della Perla. Ecco, in passato siamo stati abituati a vedere esempi simili di appunto società che erano in crisi, che venivano rilevate, ma semplicemente quello che interessava a chi rilevava l'azienda era il marchio. È un caso simile questo, quindi? Beh, questo è quel che sembra dalle cose che emergono quotidianamente e appunto dalla dinamica con cui si stanno sviluppando le cosiddette relazioni industriali, che appunto sono in questo momento assai carenti e del tutto insoddisfacenti. Quello che sembra è che ancora una volta l'interesse principale fosse da un lato per il marchio più che per la capacità produttiva e per il lavoro che in particolare a Bologna si è sedimentato negli anni, e dall'altro appunto un'operazione di carattere speculativo. Ecco, in molti già la settimana scorsa evocavano l'intervento del ministro Di Maio. Sei d'accordo? Dovrebbe intervenire? Ma io, quando è stata aperta l'azienda la procedura di licenziamento, ho fatto subito un'interrogazione parlamentare chiedendo precisamente questo, lo sviluppo economico per il lavoro, Luigi Di Maio, cioè che faccia il suo mestiere, che apra un tavolo di crisi al MISE, che chieda all'azienda con la forza e con il peso specifico che solo il governo può mettere in campo di sospendere la procedura, di aprire un'interlocuzione, di presentare, se ce lo hanno, un piano industriale di rilancio che in qualche modo dia conto di quello che sta accadendo, perché altrimenti si tratta appunto soltanto di una procedura di licenziamento, una ristrutturazione del personale su cui ancora una volta si scaricano i costi non solo della crisi, ma in questo caso appunto di giochi speculativi che nulla hanno a che vedere con le dinamiche della produzione reale. Hai avuto modo di incontrare le lavoratrici e di capire qual è il loro umore? Sì, ho avuto modo di incontrarle tutte, anche i lavoratori che ci sono, perché qualcuno ce n'è. C'è stata una sorta di mini assemblea nella mensa della fabbrica durante lo sciopero, anche perché fuori in quel momento diluviava. Ho parlato a lungo con loro, ho anche fatto un piccolo intervento, me l'hanno chiesto, l'ho fatto con piacere. Il loro umore è l'umore di persone che sono molto preoccupate per il loro futuro, come sempre quando si determina una crisi aziendale, perché bisogna ricordarcelo, quando c'è una crisi, al netto dei numeri, del risanamento, dei bilanci, dei conti, ci sono vite vere in gioco, e dunque quando la tua vita è in gioco la preoccupazione, l'angoscia è la cosa più rilevante. Qualcuno diceva giustamente, pensa con quale umore andiamo in vacanza a agosto, immaginando di non trovare più al nostro ritorno non solo il posto di lavoro ma magari neanche l'azienda, visto che le prospettive non sono delle migliori. E però contemporaneamente, insieme all'angoscia e alla difficoltà, anche un clima molto bello, molto combattivo. Hanno composto e scritto 21 canzoni con le quali animano i loro presidi, le loro mobilitazioni, cantano, ballano, e in questo modo si danno forza e danno anche forza alla loro mobilitazione. Appunto, quando si dice creatività, in questo caso lo si dice in modo molto appropriato, una lotta forte, determinata e anche molto creativa. Ecco, ti faccio un'ultima domanda un po' più politica, un po' più generale, diciamo, perché la settimana scorsa sono usciti dei dati sulla disoccupazione e l'occupazione che sembravano, insomma, così positivi. Dall'altro vediamo nascere vertenze di questo tipo, ricordiamocene un'altra aperta, non ancora risolta, che è quella dell'Ilva di Taranto, ma ce ne sono, insomma, tante altre. E come dobbiamo leggere queste due notizie che così a occhio sembrano un po' contrastanti? Ma intanto ci vuole sempre molta attenzione quando si commentano i dati generali sull'occupazione, sulla situazione del lavoro, perché siamo soliti in questo paese commentare in modo esaltato, catastrofico, zero virgola, che dicono di solito molto poco sulla tendenza di fondo. Quello che invece mi pare evidente è l'assenza, ancora una volta, va detto, non è, diciamo, questione che riguarda soltanto questo governo, ma è questione che ormai va avanti in questo paese da diversi decenni, l'assenza di una discussione pubblica sulle politiche industriali, su dove va la manifattura, l'industria di questo paese, a fronte invece di una retorica insopportabile sul Made in Italy, sull'italianità. Insomma, nel paese del prima gli italiani, scopriamo che la manifattura italiana, quella di pregio in particolare, va via pezzo a pezzo, perché parliamo di aziende le cui proprietà sono ormai da tempo trasferite fuori dai confini nazionali, e dunque questo stride molto con la retorica dell'italianità e poi l'assenza della capacità di mettere in campo una politica che dia prospettiva e futuro a una manifattura che invece in questo paese aveva almeno una grande tradizione. Io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi.